it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a bee. Ciao a tutte, cominciamo la trasmissione di oggi con un allegro brioso. Siccome è una trasmissione sul lavoro, cominciamo con una scritta che c'era sui muri del 77. Meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine. E con una frase, una testimonianza, detta da un'operaia di una fabbrica e riportata da Quaderni Rossi. Io sono entrata in fabbrica 15 anni fa. Ero contenta di andare a lavorare. Mi trovavo bene. Adesso, ogni mattina che mi alzo, mi sembra di andare a morire. Give it rain of waiting time, and it will surely pass, and it will surely pass. Away. In apertura di questa nuova puntata dei Nomi delle Cose vi diamo la scaletta degli argomenti e la struttura della trasmissione di oggi. E appunto, visto che siamo in prossimità del 1° maggio, la giornata del non lavoro di domani, abbiamo deciso di dedicare la puntata a questo tema e incominceremo riprendendo un po' una sintesi delle puntate dello scorso anno che avevamo fatto, una sul rifiuto del lavoro e l'altra sul rifiuto del non lavoro, lavoro di cura e lavoro riproduttivo, che all'epoca non abbiamo uploadato sul sito perché non eravamo capaci e che adesso invece abbiamo messo a disposizione. Comunque cominciamo appunto riprendendo delle riflessioni che erano uscite fuori da quelle due puntate e poi invece nella seconda parte abbiamo deciso di affrontare il tema del lavoro tramite una serie di collegamenti con altre compagne, altre donne che vogliono essere appunto delle riflessioni, delle interviste, delle testimonianze su che cos'è la domanda, diciamo, centrale è che cos'è per te il lavoro. Dopo questi collegamenti, alla fine della trasmissione ci sarà la rubrica di tutte le fine del mese, insomma, i mercoledì di fine del mese, quelle che non hanno il genere ma hanno la classe, che si intitola quest'oggi "Ognuno ha la sua opinione". Adesso volevamo leggervi un contributo preso da Maria Turchetto su Zapruder numero 3 del 2004 e il titolo di questo contributo è "Il lavoro senza fine, riflessioni su biopotere, ideologia del lavoro tra XVII e XX secolo". Il movimento operaio storico aveva finito per impiantarsi sull'ideologia del lavoro. A questo proposito è interessante un'analisi svolta da Maria Turchetto che definisce così l'ideologia del lavoro. Quel modo di pensare largamente introiettato nella nostra società che fa dell'attività lavorativa continuativa e retribuita il titolo normale pressoché esclusivo di partecipazione alla vita associata. L'idea che sia il lavoro a conferire pieno diritto di cittadinanza è in effetti ampiamente trasversale, interclassista, condivisa da etiche laiche e religiose. È più di un'ideologia, è senso comune, rappresenta cioè una norma di comportamento e di giudizio completamente assimilata e che dunque funziona proceduralmente senza passare attraverso un attento esame critico come dispositivo disciplinare. Successivamente però precisa che la genesi dell'ideologia del lavoro, che alla modernità certamente appartiene, è riconducibile ai processi di formazione degli stati nazionali che inaugurano le tecniche del biopotere. E infatti, per esempio, prendendo un altro contributo da Gli autonomi, le storie, le lotte e le teorie di Derive a Prodi del 2007, leggiamo che nella tradizione del movimento operaio il miglior lavoratore coincide con il miglior rivoluzionario. Per i sindacati e i partiti di sinistra, quelli che tradizionalmente hanno seguito questa strada, il lavoro rende liberi e legittima il potere operaio. Sono i capitalisti, in questa visione, a essere assenteisti, parassiti, sciuponi, sfruttatori, profittatori. Chi più lavora più deve governare la società. Questo in sintesi l'assunto della tradizione operaia. Però, quando è che questo viene meno? Cioè, la teoria del rifiuto del lavoro, che di fatto è degli anni 70 e viene dalle pratiche operaie nelle fabbriche, comporta uno stravolgimento assoluto in quello che era questa tradizione lavorista, operaia e comunque tradizionale dei partiti della sinistra, anche se c'erano dei precedenti illustri come il diritto alla pigrizia di Lafargue, il diritto all'ozio, che era ancora un pamphlet del 1883, mi pare 87. E quindi e soprattutto tra il 74 e il 75, 1974 e 1975, che le pratiche antilavoriste e antiproduttiviste, le pratiche di appropriazione e antistituzionali usciranno dalle fabbriche per incontrare nuovi soggetti sociali come il proletariato giovanile o le donne, che si stavano organizzando anch'essi in maniera autonoma. La rivoluzione operaia non può significare un nuovo nome per lo sfruttamento del lavoro vivo, può intendersi soltanto come possibilità concreta, materiale, di liberazione dal lavoro vivo dell'intero apparato produttivo organizzato dal lavoro morto, come distruzione dei rapporti capitalistici in ogni loro specificazione. Rifiuto del lavoro come punto più alto e generale dello scontro politico con il capitale. E il rifiuto del lavoro fatica, del lavoro espropriazione, significa in positivo richiesta perentoria di conquista di tutto il potere, di appropriazione di tutta la ricchezza sociale. Questo l'abbiamo preso dalla classe numero 6 del 14 giugno 1969. Allora, perché abbiamo cominciato così? Perché mai come in questo momento, in cui il neoliberismo ha la pretesa di assumere in toto tutto il tempo della nostra vita, di assimilare il tempo del riposo a quello del lavoro, di eliminare ogni barriera tra questi due momenti, un momento in cui avanza la pretesa di normare il nostro privato addirittura, dai desideri alla sessualità, dagli svaghi alla salute, quindi mai come in questo momento la teoria del rifiuto del lavoro colloca nella sua giusta dimensione la pretesa del capitale e la nostra ribellione. Allora, quindi abbiamo pensato di rivolgere, proprio perché il lavoro è questa grossa parte della nostra vita e allo stesso tempo condiziona tutto il nostro esistente ogni giorno di più, abbiamo pensato di rivolgere a noi stesse e a una serie di compagne una domanda: che cos'è per te il lavoro? Perché? Perché ognuna, raccontandosi, raccontando le proprie esperienze, può dare una visione di quello, non solo di quello che è per lei, ma può aiutarci a capire tutte le sfaccettature che in questo momento il lavoro assume. Quindi adesso proviamo a collegarci con Elena, e perdonateci se vi rubiamo del tempo perché i nostri collegamenti telefonici non sono proprio espressi. Pronto, meno male, siamo contente. Ogni volta che dobbiamo fare qualche telefonata entriamo in difficoltà perché abbiamo detto si prenderà o non si prenderà. Ci sei. Allora, ciao. Senti, noi stiamo impostando questa trasmissione, dato che domani è il 1° maggio, non so se ci hai sentite finora, ma una domanda, che cos'è per te il lavoro? Perché le sfaccettature sono tante e come donne penso che abbiamo tanto da dire. Quindi che cos'è per te il lavoro? Guarda, allora io parto da quello che è un aspetto appunto più personale, e quindi la prima cosa che mi è venuta in mente pensando al lavoro è la quantità di ore, come dicevate poi anche prima negli interventi, quantità di ore che nella mia giornata sono occupate dal lavoro, e quindi dall'esecuzione poi di compiti che sono sempre ripetitivi ogni giorno e soprattutto che vengono svolti nello stesso posto, in un posto chiuso, e che quindi danno proprio la dimensione della costrizione. Tu lavori nel privato? Io lavoro nel privato in un'azienda piccola, per quantità di dipendenti, che comunque però genera comunque un grosso fatturato. E per fortuna, diciamo, da circa 2 anni ho un contratto part-time all'80%, ossia mentre fino a 2 anni fa lavoravo 40 ore settimanali, quindi avevo un contratto full-time, ora lavoro 32 ore settimanali. E in termini di quantità di lavoro questo non ha portato un cambiamento, nel senso che nelle 32 ore che svolgo ora la mole di lavoro è la stessa, e quindi nelle stesse ore, cioè nelle 32 ore che faccio ora svolgo le stesse mansioni che svolgevo prima con contratto full time. E su questo, insomma, ho un po' ragionato. Mi sembrava interessante riportarlo, insomma, nella discussione, per il fatto che naturalmente molte donne hanno un contratto part-time per conciliare quelli che sono poi gli impegni domestici, e quindi tutto quello che rappresenta poi il lavoro di cura. Sì, quello che dicono che è un contratto fatto per le donne, no? Sì, oltretutto appunto questa è funzionale naturalmente allo svolgimento del lavoro, del carico familiare, e è funzionale comunque anche al capitale, nel senso che proprio alcuni giorni fa un compagno ci girava un articolo, se non sbaglio, di Repubblica sulla Svezia, dove appunto si lavora più o meno 4-5 ore al giorno con parità di salario. Certo. Quindi invece che le 8 ore sono 4-5 ore al giorno, e questo però naturalmente per noi dove i carichi di lavoro aumentano e anche la giornata lavorativa aumenta, può sembrare insomma anche una risoluzione, un orizzonte. In realtà poi un orizzonte reale non lo è, perché comunque anche da molti studi si verifica che effettivamente il lavoro svolto nelle 4-5 ore è lo stesso che viene svolto normalmente nelle 8, e il padrone ne ha un vantaggio in termini di risparmio per quanto riguarda i costi fissi di produzione, quindi i consumi di certo. energia, di macchinari, eccetera, e un risparmio anche nei costi sociali attinenti al fatto che per esempio il lavoratore è più produttivo, è più probabilmente si metterà anche meno in malattia, e si genera nel lavoratore anche un senso di gratificazione nei confronti del padrone. Quindi insomma anche in stati dove appunto c'è questo un utilizzo del part-time, ma anche a parità di salario, che comunque è un risultato che non ci farebbe schifo, ecco, questo... ma però non è quello a cui vogliamo arrivare. Infatti sai, questo mi ricorda una cosa che avevamo letto tempo fa sul lavoro a casa, no? Che hanno fatto sì. un articolo, mi pare sempre sulla Repubblica, su questi siti, chiamiamoli sì. su questi blog o giornali riformisti. Diceva finalmente anche nella pubblica amministrazione forse si farà il lavoro a casa, per cui una addirittura, noi abbiamo letto un articolo in cui diceva che una donna può fare la lavatrice e fare finire il lavoro d'ufficio, cioè tutto un programma, no? Cioè, non ho parole su questa cosa qua. Infatti mi sembrava interessante il fatto di puntare l'attenzione su questa cosa, per non cadere anche noi compagni e compagne nel miraggio del, cioè quando per esempio noi utilizziamo, non lo so, mi viene in mente lo slogan lavorate meno, lavorate tutti, se utilizzato in questo senso, per cui sì, va bene che lavoriamo, basta che non occupa maggior tempo della nostra vita, non mi sembra, non è in realtà una risoluzione reale dello spostamento che il capitale esercita sulla vita delle persone. No, io sono sì. infatti sono d'accordo con te, perché io mi ricordo che il percorso che è stato fatto, almeno il percorso mio di tanti anni fa, appunto negli anni 70, era cominciato meno orario più salario, poi lavorare meno, lavorare tutti, però poi si è approdati al rifiuto del lavoro, che è un'altra cosa. Sì, infatti sì, ho sentito che già appunto ne avete parlato all'inizio della trasmissione, e anche su questo insomma parlando poi ecco soprattutto con persone, colleghi, normalmente quando si parla, no, di rifiuto di lavoro del lavoro con diciamo non militanti, spesso quello che ti viene detto è sì, vabbè, però come si fa nella società, come sopravviverebbe una società senza il lavoro, no? Cioè. In realtà questo è un discorso che naturalmente porta avanti i padroni e fa comodo ai padroni per continuare insomma ad asservirci, perché quello che viene messo in diciamo quello che noi vorremmo superare non è il fatto del fare, cioè quello che noi dovremmo riconoscere quali sono i nostri interessi, i nostri bisogni, e nel senso come classe, quindi come proletari e proletari, e questo non esclude il fatto che poi in una società futura ci siano dei compiti, cioè che non viene escluso il fare, ma che è un fare slegato dallo sfruttamento e dal profitto. Beh, certo, per esempio una delle cose che bisognerebbe dire prima di tutto è che cosa si intende per lavoro qua dentro. Ecco, appunto. Perché il lavoro, cioè, non è che qualsiasi tipo di attività una faccia è assimilabile al lavoro, o comunque certo. Che qui dentro il lavoro è quello che è pagato in cambio di una prestazione che poi, vabbè, è una prestazione costretta di fatto, oltretutto, no? Cioè non è una prestazione scelta, nel senso che noi i lavori che facciamo li facciamo perché altrimenti non ci viene dato un corrispettivo in denaro, non riusciamo a vivere, di conseguenza è una prestazione. È vero che è una vendita di braccia, di mente, di testa e compagnia bella, però di fatto è una vendita obbligata in questo tipo di organizzazione sociale, no? Certo, e oltretutto io parlo per esempio del mio lavoro, è assolutamente inutile. Sì, sì, sì, sono d'accordo. Che io lavoro in una società che fa audio, diciamo, tutta la sonorizzazione per gli spot pubblicitari, e credo che sia un lavoro di cui si potrebbe fare benissimo a meno, insomma, ecco. Certo. Sì, sì, ma penso che sia un po' generale questa cosa. Cioè, tant'è vero che ci chiediamo che funzione abbia il lavoro al di fuori di quello che dice di essere, no? Sì, sì, sì. Sì. Certo. Un'altra cosa invece, ecco, che così, insomma, non tolgo troppo tempo agli altri interventi. E, naturalmente, come compagna, insomma, io da qualche anno in particolar modo faccio parte, insomma, di un'assemblea che si occupa proprio di lavoro, e mi è nata come esigenza proprio istintiva e spontanea proprio quando ho iniziato a lavorare, nel senso che ho sentito maggiormente lo sfruttamento, la voglia di ribaltare poi questa situazione, e quindi ho cominciato a partecipare all'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà, che proprio si occupa di intervenire in luoghi di lavoro per costruire vertenze, lotte, insomma, all'interno dei posti di lavoro e contro, appunto, il capitale. E quindi l'intento è quello di costruire delle lotte a partire dai bisogni di lavoratori e lavoratrici, e credo che questa sia una cosa importante. Io, per esempio, nel mio posto di lavoro, io lavoro in un posto piccolo, quindi ho tre colleghi di lavoro, e quindi la mia capacità di azione politica all'interno dell'azienda è sicuramente limitata, però tento di farlo con gli strumenti e le possibilità a mia disposizione. Sicuramente in posti di lavoro più grandi questo è, diciamo, è più facile, no? Anzi, non è mai facile. Non lo so. Però, diciamo, naturalmente c'è una numericamente una appartenenza, insomma, di classe maggiore, che può permettere ai lavoratori di esercitare una pressione differente nei confronti del padrone. Però penso che sia importante che ogni compagno e compagna, comunque, anche nel proprio posto di lavoro, metta poi in atto quello che cerca di produrre anche in altri luoghi. Certo. Proprio perché naturalmente quello che facciamo non è che è un'attività part time, per cui ogni tanto ci si occupa di fare delle cose, ma appunto riguarda in toto tutta la nostra vita, e quindi anche il lavoro, che tante ore occupa della nostra vita, deve essere un luogo dove cercare di di creare del conflitto, insomma, e coscienza di classe. Certo. E credo che sia importante anche proprio che all'interno del cosiddetto, insomma, movimento ritorni proprio la necessità e l'importanza di rimettere il conflitto capitale-lavoro al centro dei percorsi politici. Io ti volevo ringraziare della testimonianza. Se ci continui a ascoltare, io adesso ti vorrei raccontare la mia, che è leggermente diversa e che pure sto in un posto pubblico grande, diciamo. E vabbè, io se mi senti adesso te la racconto, perché in effetti ci sarebbero delle cose su cui sarebbe bello confrontarsi, perché appunto man mano i percorsi, magari anche non solo quelli che uno attraversa, ma anche le esperienze da cui viene, poi ti portano ad avere un rapporto diverso col mondo del lavoro, no? Sì, chiudo infatti insomma su questo, riprendendo un po' quello appunto che dicevate del rifiuto del lavoro, e concludendo appunto, penso che l'idea di rifiuto del lavoro non equivalga al fatto che si vadano abbandonati i luoghi di lavoro come terreno di intervento di lotta. No, le due cose non sono in contraddizione, in effetti, perché poi altrimenti ci sono delle persone che ti dicono, l'hanno detto anche a me, che dice: allora sì, se non lavorasse nessuno, allora tu non vuoi lavorare. Cioè, il problema del rifiuto del lavoro non c'entra niente con questa roba qua. Cioè, il fatto che una sta in questa società e lavora in un certo modo, il consapevole di che cosa significa il rifiuto del lavoro, sono due piani completamente diversi. Sì, ecco. E poi no, appunto, come compagni e compagne, il fatto di avere appunto come idea quella del rifiuto del lavoro non significa che all'interno dei posti di lavoro non sia importante fare in modo che questi siano terreni di produzione del conflitto, appunto. Ecco, su questo adesso, se andiamo avanti, ti vorrei rispondere, insomma, raccontare la mia esperienza, così insomma poi magari anche in un altro contesto ci confrontiamo. Certo. Ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. Un bacio grande da tutte quante qua. Un bacio a tutte, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Che Eli ci racconti invece appunto la sua testimonianza rispetto al lavoro, quello che mi veniva in mente dalla corrispondenza di prima e in generale da questo discorso sul rifiuto del lavoro è che credo che il rifiuto del lavoro passi in prima battuta innanzitutto per il rifiuto dell'etica lavorista, diciamo, della lavorista e anche quindi di conseguenza meritocratica, cioè quella introiezione di questa cultura, di questo pensiero dominante, chiaramente asservito a delle logiche di profitto, che fondamentalmente richiede a noi tutti di partecipare allo sviluppo della società, delle forze produttive, eccetera, ognuno in ragione di delle proprie attitudini, delle proprie capacità, delle proprie possibilità, ma proprio diciamo che la non partecipazione diventa una negazione della propria esistenza. Quindi il rifiuto dell'etica lavorista significa che io non mi devo meritare di avere un tetto, di mangiare, di avere delle relazioni amicali o sentimentali. Non sono cose che io devo meritare, per questo collego tanto il lavorismo con la meritocrazia, perché questa è l'impostazione in cui siamo calati. Quindi quando parliamo di rifiuto del lavoro, a me viene in prima battuta in mente questo. Quindi in questo senso la centralità del rifiuto del lavoro investe non soltanto i luoghi di lavoro intesi in stretto senso, no? Quindi cioè i luoghi produttivi nel senso a tutti i livelli, no? Da quelli più dirigenziali a quelli meno, ma anche tutti gli altri ambiti della nostra vita che non sono immediatamente produttivi, ma che sono permeati e comunque attraversati da questa logica. Certo, prima di ammorbarvi con la mia testimonianza, volevamo un attimo leggervi un testo che ci ha mandato Elena da Milano e che ci sembra un contributo, ci sembra molto bello, che potete trovare sul suo blog, che è scateniamotempeste.wordpress.com, e che è stato fatto per una vigilia di festa che non era quella del 1° maggio, ma che comunque va benissimo lo stesso. Sì, vi volevo leggere questo contributo e dire che insomma in maniera sicuramente molto narrativa rende un po' l'idea di quello che Marghe ci sta raccontando un po' su quello che pensiamo proprio sull'etica del lavorismo e di quanto proprio la questione della produzione, della meritocrazia siano connesse tra di loro e che ci imbriglino praticamente in una rete che in realtà ci costringe anche a pensarci poi in questa maniera, no? A vederci chi siamo, il lavoro che facciamo, quindi e la valutazione del nostro morale della nostra persona avviene in base a quanto siamo bravi in quello che facciamo, e tendenzialmente quello che facciamo dopo una certa età, diciamo normalmente dai 18 anni in su, tendenzialmente è che lavoro fai. Sei quello che il lavoro se che fai un lavoro. Se fai un lavoro. E quindi il problema c'è. E adesso insomma poi tanti spunti vengono in mente mentre leggiamo, abbiamo sentito l'intervento di Elena e un'altra cosa appunto che un'altra compagna stava dicendo giustamente, in alcuni lavori tipo il babysitting o lavorare come segretaria o in un negozio a nero ti mette in una condizione molto spesso di non poter portare il conflitto sul tuo posto di lavoro e quindi tra virgolette in qualche modo ti tuteli, ovviamente con una coscienza di classe che almeno nel nostro caso c'è, e anche di genere nel caso del lavoro di cura, e quindi questo ti permette di salvarti per quel poco che si può fare, per il rotto della cuffia, insomma, come si suol dire, non c'è nulla di veramente rivoluzionario, ma perché effettivamente non esiste una controparte, perché molto spesso, e questo l'abbiamo già detto in altre puntate che non riguardavano direttamente il lavoro, la classe borghese, la media borghese ormai è scesa verso di noi e quindi in realtà la guerra tra poveri si è allargata all'ennesima potenza. Quindi appunto quello che viene definito il bottegaio o la signora o il signore che ti paga per guardare il figlio o la figlia stanno più o meno economicamente nella tua stessa posizione. Però insomma Elena riesce a raccontarcelo in una maniera più carina. Lavoro e torno, c'è la bolletta da pagare, allora rimedio qualche ora di lavoro, poi torno e la benzina per lavorare, allora lavoro ancora un po'. Meno male che ce l'ho questo lavoro. E il gas? Che l'altro giorno uno voleva fregarmi facendomi cambiare il piano io tariffario. Si faccia un regalo che è quasi festa. Per rotta di collo non ho abboccato. Che poi ho visto su internet che era una truffa, perché i lavoratori oggi li mandano a truffare anche altre lavoratrici e altri lavoratori. Tutti col fiato sul collo. Io non so se riuscirei a truffare un'altra donna col sorriso o un uomo. Non so. E poi, siccome abbiamo deciso di conformarci un po', c'è la cena con i colleghi e due miseri regali piantati lì da fare. Lavoro un po' per quelli anche. Mi mette tristezza entrare nei centri commerciali, solo in caso di estrema necessità. Preferisco il signore della fiera di Senigallia, che vende orecchini che ha montato lui con le monete indiane di un suo vecchio viaggio. Peccato che di fronte alla fiera ci sia la polizia di Stato, che pattuglia i venditori di biciclette rubate. Penso che non mi piacerebbe che mi rubassero la bicicletta, direi bastardi. Ma poi penso che non mi piace nemmeno la polizia di Stato, che pattuglia i ladri di biciclette. Penso che anche i ladri e gli sbigli lavorano, e mi ritrovo a canticchiare che la disoccupazione ci ha dato un bel mestiere. Che anche a portare dentro i ladri di biciclette non credo che ce la farei. Lavoro ancora un po', e di questo lavoro che è dovuto, che non desta più emozioni, come se fosse di contabilità, anche se di materia umana, non di numeri. È la materia umana, dovrebbe essere polvere di stelle. Lavoro e ti vorrei baciare mentre sono al lavoro, che il tempo nostro è sempre troppo piccolo e sacrificato. E dopo che ho fatto tutto quello che mi tocca fare, ci resta solo un ritaglio, che non vogliamo sprecare, e siamo fortunati. Perché ci vogliamo bene e perché lavoriamo e viviamo dignitosamente, che non ci guardiamo attorno, noi lo sappiamo che noi siamo fortunati, perché non è scontato, ed essere i più felici dei tristi ci riempie di lacrime agli occhi e ci lascia un sapore strano sul palato, e vorremmo urlare al cielo, ma non si sa cosa vorremmo dire. Io volevo riportare una riflessione che ho fatto a proposito del lavoro, appunto, e ho considerato il fatto che un po' il senso comune delle persone, no, sui vari tipi di lavoro. Ho pensato che esistono diversi tipi di lavori di serie A, di serie B e poi di serie C. Quelli di serie A sono lavori di tipo impiegatizi, cioè lavori standard, che vengono considerati più lavoro serio, no? Quando dici è lavoro, che ne so, in banca, allora fai il lavoro serio. Poi ci sono i lavori di serie B, tipo quelli di fatica, no? Pensiamo agli operai, eccetera. E lavoro di serie B, secondo me, rientra anche il lavoro di cura, tipo le babysitter, eccetera. E i lavori di cura sono vengono considerati di serie B perché? Perché sono considerati generalmente come facili, no? Come scontati, perché generalmente li fanno le donne e quindi quello che fa una donna dentro casa è scontato, gli viene naturalmente, quindi non è che poi fa così tanto sforzo nel farlo, no? E le donne infatti sono considerate come genericamente inclini per natura, no? Nel senso comune, questo tipo di lavoro. Infatti, un piccolo aneddoto, poco tempo fa mi è capitato di conoscere per caso una donna sudamericana sull'autobus che così mi è capitato di parlarci un po', di farci un pezzo di strada insieme, e anche lei badante, diceva che la sua assistita, che era un'anziana con l'Alzheimer, gli aveva richiesto a un certo punto di una prestazione, nel senso che voleva essere toccata da questa donna. E quindi, cioè, per questo, per dire che il lavoro di cura vengono date anche per scontate certe prestazioni, perché io mi posso immaginare le badanti o colf professioni di questo tipo, quante richieste possano essere fatte, no? Di questo genere, prestazioni vanno oltre a... E poi ho considerato il lavoro di serie C, non lo so perché più di una volta mi è capitato di parlare con persone, non so perché io frequento così in una zona dove si mettono i rom a fare il mercatino la mattina, e più di una volta mi è capitato così, parlando con le persone del posto, che questi rom danno fastidio, insomma, sono sporcano, si mettono lì e portano sporcizia. Io ho pensato che quello è proprio un lavoro che invece non viene considerato come lavoro, quando invece secondo me è a tutti gli effetti il lavoro, perché il rom che si va a fare il giro dei cassonetti la notte e la mattina dopo porta le cose a vendere, quello è un mezzo di sostentamento che sicuramente è, secondo me, è da considerare come lavoro, mentre invece viene visto come, cioè, non, dal senso comune non è proprio... È anche illegale. Ti ricordi che abbiamo dato quella notizia proprio da questi microfoni, di quella sentenza a 6 mesi di carcere che era stata data a questi, non mi ricordo più neanche quanti erano, insomma, delle persone che avevano rubato, tra virgolette, dei cartoni dalla spazzatura, mm-hmm. E gli hanno dato 6 mesi perché hanno fatto un danno all'ama, perché certo, diciamo, no? Cioè, un danno economico perché di mancato riciclo. È certo. E quindi ecco, questo è un po' le considerazioni che mi sono venute in mente sul lavoro. Ma se a me adesso mentre parlavi, soprattutto dei lavori di serie B, diciamo, mm-hmm. In questa descrizione a me, io mi ritrovo molto nel lavoro, cioè è un tema, diciamo, abbastanza scivoloso, no? Però io sono una studentessa. Sì, ho fatto dei lavoretti, ma sono alquanto privilegiata, quindi comunque fondamentalmente il mio, diciamo, la mia occupazione principale è quella di studiare, dagli esami, eccetera. E comunque anche quello, no? Quando si dice che lo studio, l'università è un ingranaggio poi di un sistema più generale, di un precariato che è classista, eccetera, eccetera, senza addentrarci appunto in analisi di tipo più generale, mi viene da considerare lo studio come un lavoro in qualche maniera particolare, nel senso che la distinzione tra il tempo di lavoro e il tempo libero, quando sei all'università, praticamente scompare. Cioè tu sei sempre disponibile, sì, a quell'impegno. Potresti sempre, quindi non è che c'hai un orario di ufficio oppure, no, delle giornate. Cioè, per riuscire a scandire la temporalità del tuo quotidiano in termini di adesso produco, tra virgolette, cioè adesso studio, adesso mi riposo, ci vuole un'autodisciplina non... È vero, sì. Insomma, no? E effettivamente è una condizione abbastanza particolare. E poi non è neanche, guarda, riconosciuta come lavoro effettivo, no? Io concordo profondamente questa cosa, perché quando mi sono laureata alla magistrale l'anno scorso, e comunque ho sempre lavorato mentre studiavo, quindi la psicopatia proprio all'ennesima potenza, ma l'aver finito di dover studiare è stata una liberazione, perché è vero che al lavoro ti sfruttano, che non ti danno orari, cioè nel senso, poi lavoro a nero, quindi insomma penso che non vi debba raccontare le situazioni in cui mi sono trovata. Però mi sono sentita più libera, perché al lavoro attacchi a una certa ora e stacchi più o meno a una certa ora, cioè più o meno il margine di ritardo è quello. Poi comunque e non ne va di se tempo. Non è cioè nel senso all'università tutta quella cosa che dicevo prima del lavoro come si coniuga con la meritocrazia, no, con tutta questa retorica del merito, cioè l'università è all'ennesima potenza, cioè ti senti proprio una soletta da scarpe, no, se non... sì, perché devi dare il massimo, cioè nel senso, voglio dire, almeno se hai intenzione di fare l'università e studiare, se va male dipende da te, certo, certo. Io invece sono il tipo, com'è, di lavoro A, come diceva la privilegiata, ci abbiamo A. Cioè io ho un lavoro fisso e pubblico. Allora, che avere un lavoro fisso e pubblico adesso è, non so, quasi impossibile. Però io appartengo a un'altra generazione, a quella che ancora faceva i concorsi. Gli ultimi concorsi sono quelli dell'86 che ho fatto io, poi non sono stati fatti più. Ma l'unica, neanche prima, cioè alla fine, no? Tutto sto posto fisso, una generazione. Sì, curato, una generazione, cioè... sì, perché la generazione dei miei genitori, io, mio padre, lavorava anche di domenica, ecco. Oh, però noi adesso non facciamo la difesa della categoria, noi, cioè ce lo siamo guadagnato, aiuto. Vabbè, no, senza arrivare a queste aberrazioni al microfono. Però appunto io sono una che ha lavoro fisso e pubblico e quindi sono in una situazione privilegiata. Però allo stesso tempo per me, proprio perché secondo me vengo da quel tempo e da quell'esperienza politica di quegli anni, i famosi anni 70, io non mi sono mai sentita per esempio una lavoratrice. Per me il lavoro è stato sempre un furto di tempo della vita, cioè non l'ho mai vissuto né come vendita di forza lavoro mentale o fisica, per cui io do, come la, un discorso che va per la maggiore, io do una prestazione e ricevo dei soldi per vivere. No, siccome questo rapporto è impari, nel senso che io sono costretta a dare questa prestazione per vivere, non è che posso vivere senza, o comunque la maggior parte delle persone sono in questa situazione. Quando la situazione è impari e tu sei costretta a dare una prestazione, per me è un furto a tutti gli effetti, anche se poi viene pagato, è come la banca quando ti espropria la casa perché gli devi dei soldi, no? È un furto. Allora, io l'ho sempre vissuto come un furto del tempo della vita. E da questo punto di vista ho fatto un'operazione diversa da quella di cui parlava Elena prima. Cioè io ho operato sempre una sottrazione rispetto al lavoro, cioè io mi sono sempre sottratta alla carriera, sottratta agli appuntamenti, sottratta proprio a tutti i meccanismi che vengono impostati nel mondo del lavoro, e continuo a sottrarmi. Diciamo che rispetto a quello che ha detto Elena, c'è una sensazione che mi pervade, perché io sono in un posto di lavoro di tante persone, cioè nel mio ufficio siamo in 3.000, quindi è un posto grande, un posto vero. Però rispetto a tanti anni fa è successa una cosa, che non c'è più appartenenza di classe, non c'è più neanche appartenenza, diciamo consapevolezza dello status di sfruttato di lavoratore, cioè il neoliberismo è riuscito a rompere assolutamente questo tipo di solidarietà, qualsiasi tipo di concetto di appartenenza a un luogo, a un lavoro, anche a una categoria, nonostante i sindacati abbiano fatto sempre lotte categoriali. Allora, che cosa succede in questo caso? Che attualmente, secondo me, fare le lotte sul posto di lavoro è molto difficile, perché si è rotto il meccanismo di appartenenza e diventa un attimo uno sforzo voluto e impostato, cioè è come voler fare una cosa in un posto che ha perso, chiamiamoli, connotati di partenza. Però sarebbe un discorso molto lungo, io diciamo volevo come testimonianza dare soltanto questo, che la mia oppressione l'ho sempre sentita a tutto campo e non come lavoratrice, prima di tutto a tutto campo, per cui sono sempre stata molto lontana da tutte le lotte, non so, per l'asilo nido sul posto di lavoro, per la mensa sul posto di lavoro, perché io non voglio mangiare sul posto di lavoro, io voglio mangiare dove mi pare, io non voglio portare il bambino sul posto di lavoro, io voglio portarlo dove diavolo mi pare, io voglio, rivoglio il tempo della vita, non voglio delle agevolazioni, dei diritti, delle prebende o compagnia bella. Le trovo un'ulteriore coercizione. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, come nostro solito, o facciamo casini col telefono oppure ci dilunghiamo troppo, quindi insomma andiamo a chiudere, e pensavamo insomma di continuare questa discussione nella prossima puntata, mercoledì prossimo. E volevamo ricordare che per sottoscrivere Radio Onda Rossa, il conto corrente postale è 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00 185, Roma. E che per ascoltare, che per riascoltare le nostre trasmissioni, per rileggere i materiali, coordinamenta.noblogs.org. E chiudiamo con questa cosa del finire le frasi mi confonde, no, concludiamo con il contributo di Frantic. Ognuno ha la sua opinione? Chi non ha sentito almeno una volta la frase ognuno, ognuna ha la sua opinione? Probabilmente è successa a chiunque. È la frase favorita da discriminatori, discriminatrici, oppressori, oppressi. Beh, diciamo che Dennis, sì, mette la chiocciola e alla quindi, fine. Sì, alla fine, per cui possiamo leggerla con la I, sapendo che però lui ha sempre questa attenzione. È la frase favorita da discriminatori, oppressori e stronzi di ogni risma per giustificare le proprie attività di rinforzo dell'idea dominante. Come anarchica, antirazzista, femminista, persone LGBTQIA, antispecista, ci troviamo costantemente a fronteggiare atti di sopraffazione e violenza verbale liquidati con questa locuzione. Come sbarazzarsene definitivamente? Purtroppo non lo so, ma decostruire i pensieri che sono alla base di questa mossa retorica è sicuramente il primo passo. Libertà di parola per molti significa il diritto a dire la propria cazzata senza prendersene la prendersene la responsabilità, e chiunque critichi questo concetto è un fascista, un illiberale e via dicendo, come se libertà fosse libertà di opprimere. L'idea per cui occorre tollerare l'espressione di chiunque, perché ognuno ha il diritto di esprimersi, è meravigliosa in teoria, ma terrificante nella pratica. L'effetto che produce è tollerare chiunque e qualunque cosa, comprese le tendenze reazionarie che di fatto impediscono di cambiare le cose e mantengono lo status quo. La chiave sta nel concetto di responsabilità, poiché il numero di coloro che si sperticano a difesa della libertà di parola e non solo, e che sono poi disposti nell'eventualità ad accogliere reazioni negative e addirittura a prendere atto di aver sbagliato, è così ridicolmente basso da sfiorare l'inesistenza. Ciò che si desidera dunque non è la libertà di parola, ma la libertà della propria parola.